colori dell'anima. Buonasera a tutti, noi siamo Carla e Angela la regia, siamo su Radio Alma e questi sono i colori dell'anima. Buonasera, buonasera, buonasera. Beh, vorremmo già cominciare con ricordarvi il nostro sito, o meglio sito di Radio Alma, ossia radioalma.eu/i colori dell'anima e la nostra pagina Facebook, Angela e Carla, quindi andate prima su Facebook e poi Angela e Carla e potrete interagire dal vivo. Sì, sì, siamo già in linea, aspettiamo i vostri messaggi perché sappiamo che questa sera dall'Italia ci segue molta, molta, molta, molta gente, molte persone grandi, piccini, medi, e qui in regia c'ho anche con me Giampaolo Cangemi. Eh sì, dalla Sicilia, da Tusa. Ok, vai Carla. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un atelier di scrittura creativa svoltosi in una scuola media, la scuola media Stanzione di Orta di Atella, e questa scrittura creativa è stata a partire dell'ascolto di un brano originale che si chiama Orizzonte, un brano originale appunto di Angelo, un brano di sax solo. Questo progetto si è allargato, adesso è seguito un rapporto epistolare, un concerto, un workshop. Ma diciamo che il tutto è partito con un atelier di scrittura creativa e abbiamo chiesto proprio alla professoressa Valeria Lombardi di spiegarci da dove è nata questa idea, di parlarci della sua scuola, dei suoi allievi, e abbiamo avuto il piacere di registrare un'intervista con lei perché non è potuta per ovvi motivi arrivare qui a Bruxelles a spiegarci di persona. Ma è a Bruxelles qui con noi con questa intervista, infatti ringraziamo la professoressa Lombardi, Valeria. Un abbraccio forte, fortissimo. Speriamo che sei in ascolto, e quindi ti salutiamo. Se sei in ascolto, fateci segno sulla nostra pagina Facebook. Continua, vai Carla, scusami. E quindi sabato abbiamo chiesto a Valeria se gentilmente poteva darci qualche minuto del suo tempo, anzi direi più che un minuto. Sì, siamo stati più di un'ora. E quindi di spiegarci da dove è nato tutto questo, perché l'idea insomma è particolarmente originale. Grazie Valeria di aver elaborato questa idea e di aver risposto alle nostre domande. E quindi, quindi io vorrei ricordare anche i numeri di telefono. Allora, per chi ci ascolta da Bruxelles, che è sintonizzato sulle frequenze di 101.9, quindi sta ascoltando Radio Alma, i colori dell'anima, il numero di telefono è il seguente: 02 345 26 56. Mentre per chi volesse interagire con noi non tramite Facebook ma con il telefonino, da Bruxelles e fuori dall'Italia, basta aggiungere 00, questo è il numero, segnatevelo: 0032 471 40 78 04 0032 471 40 78 04. Il costo è solo di 12 centesimi anche dall'Italia. Prego Carla. Ebbene, abbiamo chiesto come prima cosa a Valeria Lombardi, la professoressa di questa scuola Stanzione di Orta di Atella, di chiederci un po' da dove è nata questa idea di questo atelier. Però prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, io farei ascoltare ai nostri amici radioascoltatori un brano, il primo brano. Puoi presentarlo Carla, grazie. Il Rinascente, estratto dall'album Alla ricerca delle radici di Angelo Gregorio. E questo era Il Rinascente dall'album di Angelo Gregorio Alla ricerca delle radici, quindi album di sassofono solo. Tutto quello che avete ascoltato è prodotto da un solo sassofono. E parlavamo quindi di questo atelier di scrittura creativa che ha avuto luogo alla scuola media Stanzione di Orta di Atella. L'ideatrice di questo magnifico progetto è stata Valeria Lombardi, quindi professoressa di italiano della seconda media, la classe ce lo dirà lei stessa dopo, e alla quale abbiamo posto qualche domanda su l'ispirazione che aveva tratto per inventare questo atelier, e quindi vi faremo ascoltare un po' di notizie, di precisazioni, di regole rispetto a questo suo atelier. Sì, perché immagino che i radioascoltatori siano curiosi adesso che cosa ha fatto, perché lei ha usato la musica, ha usato come fonte di ispirazione, come anche fonte di attenzione, perché diciamolo, oggi è difficile attirare l'attenzione dei ragazzi con i metodi tradizionali, e quindi quello che lei ha fatto è avvalersi di un mezzo quale la musica, che sappiamo che è un mezzo di comunicazione universale, per attirare l'attenzione di questi ragazzi e comunicare qualcosa, quello che Angelo ha scritto e che è arrivato differentemente nel cuore di ognuno e che ha prodotto qualcosa di diverso in ognuno attraverso questo atelier di scrittura creativa. Sentite la psicologa come parla, sentitela, sentitela. Eh sì, è vero. Quindi io darei adesso voce alla voce relativamente alla professoressa Lombardi, a Valeria. Iscriveteci, il numero è 0032 471 407804, la pagina Facebook che è sotto controllo del nostro aiuto regia di Giampaolo, è facebook.com/angeloecarla, il sito internet è radioalma.eu/colori dell'anima, e noi siamo sintonizzati qui a Bruxelles su 101.9 FM, Radio Alma, i colori dell'anima. Le sa tutte. Allora, Valeria, come ti è nata questa idea? Noi veramente abbiamo voglia di ascoltare dove hai preso questa ispirazione in modo da ispirare altrettanti professori, magari anche a Bruxelles. Mi è venuta l'idea di usare la musica di Angelo con gli alunni dopo averlo conosciuto a Caserta, perché Angelo è venuto a trovarci a Caserta durante le feste di Natale e ha messo in scena un piccolo concerto per pochi intimi, e durante questo concerto ha mostrato ai presenti come utilizza il sassofono, ovviamente ha fatto sentire le sue composizioni e ci ha anche parlato, ci ha spiegato alcune cose. Quindi io, dopo averlo sentito, ero felice e contenta perché avevo capito qualche cosa di nuovo, di particolare, che mi era sfuggito, nonostante avessi una base di cultura musicale, mi era sfuggita la differenza che lui fa tra armonia e melodia. Quindi ho compreso che il suo studio con il sassofono era finalizzato a far subire a questo strumento musicale una piccola metamorfosi. Il sax è uno strumento nato melodico, che però grazie all'innovazione di Angelo è diventato capace di costruire delle armonie. Quindi è stata una sorpresa così bella che in quel momento mi si è accesa la lampadina. Se questa cosa è piaciuta a me, se questa conoscenza con Angelo ha funzionato per me, mi ha reso più felice, più contenta perché ho capito una cosa nuova, ho pensato che avrebbe sicuramente funzionato anche per i miei alunni. Quindi ho deciso di utilizzare il CD di Angelo per un'attività di scrittura creativa, l'ho chiamata così, con i miei alunni. Angelo l'ha chiamata atelier. Devo dire che in francese fa tutto un altro effetto. La seconda cosa che mi ha spinto a utilizzare il CD di Angelo è stata la possibilità di unire musica e parole, ma non contemporaneamente come avviene normalmente nelle canzoni alle quali sono abituati i ragazzi. Io potevo usare prima le parole e successivamente la musica a brevissima distanza, perché nel CD di Angelo alcuni brani musicali sono preceduti da letture da Angelo, dalla sua voce narrante, che descrive suggestioni, impressioni, oppure brevi racconti che poi introducono alla musica. Quindi questa unione mi ha spinto, mi ha fatto così nascere il desiderio di chiedere agli alunni di scrivere qualcosa ascoltando la musica di Angelo, ma subito dopo aver ascoltato anche le parole. Quindi permetteva un ascolto disgiunto, prima di parole e poi di musica. Grazie Valeria per averci spiegato dove hai tratto ispirazione, grazie Angelo per il concerto che hai fatto a Natale a Caserta. Vedo che Valeria si è avvalsa di se stessa, nel senso che ha dato fiducia alle sue emozioni prima di tutto, cioè appunto ha sentito quello che il concerto le aveva trasmesso personalmente, e si è avvalsa delle sue emozioni per veicolare queste stesse emozioni su degli altri. Ecco, ha funzionato su di me, riprendo le parole di Valeria, perché non dovrebbe funzionare funzionare sui miei allievi e soprattutto utilizzare le storie, quindi ho dimenticato di precisare che il brano Orizzonte che i ragazzi hanno ascoltato era preceduto da una brevissima storia di qualche riga e sempre di più si perde un po' il senso della scrittura, si scrivono dei messaggini con delle abbreviazioni e quanto si scrive sempre meno, ed ecco che forse anche per questo Valeria ha utilizzato questa fonte di ispirazione nuova e adesso forse possiamo chiederle anche di quale regole si è avvalse, di che cosa è caratterizzato esattamente questo atelier. Dato agli alunni delle semplici regole, cioè dopo aver ascoltato la parte recitata da Angelo dovevano mettere la penna sul foglio e scrivere, ascoltando contemporaneamente la musica, tutto ciò che veniva loro in mente senza mai staccare la penna dal foglio, e dovevano scrivere in maniera possibilmente libera tutte le associazioni mentali che chiaramente la musica faceva, suscitava in loro. E così hanno fatto delle composizioni interessanti e molto diverse tra di loro. Quindi ecco le regole, questa penna attaccata al foglio e che non deve assolutamente staccarsi, questo dà anche, penso che aiuti anche la concentrazione, il fatto di staccare la penna dal foglio forse può deconcentrare, può far pensare ad altro, il fatto di non staccarla fa un tutt'uno col foglio, il proprio foglio, la propria storia, la propria penna, la propria opera d'arte. Mi facevi cenno che volevamo passare una storia. Sì, mi farebbe piacere, appunto, magari se non è proprio quella di Orizzonte, no, facciamo proprio quella, magari anche voi all'ascolto prendete un foglio e una penna e perché no? Sì, dai, no? Facciamo questo esperimento e poi scriveteci quello che avete scritto su facebook.com/angeloecarla o su 0032 471 407804 oppure chiamateci allo 02 345 26 56. Noi siamo su Radio Alma a 101.9 FM. E questa era Orizzonte, preceduta dalla storia, che si chiama altrettanto Orizzonte, e tratta dall'album di Angelo Gregorio Alla ricerca delle radici. Noi siamo su Radio Alma, questi sono i colori dell'anima. Frequenza 101.9 FM. E per chi ci stesse ascoltando in streaming, oppure andate in streaming voi che siete dall'Italia, radioalma.eu e per il blog /icoloridellanima. Ragazzi della scuola media stanzione, buonasera, non vi abbiamo salutato, probabilmente voi sarete all'ascolto insieme alla professoressa Lombardi. Ma io lo spero, infatti salutiamo Michele, Elisabetta, Marisa, Marco, Anna Jessica, Mario, Giuseppe, Nunzia, Desi, Carmine, Francesco, Domenico, Emilia, Rosalba, Benito M e Benito S, Salvatore, Giovanni, Luigi, Jessi e Giuseppe C. Buonasera ragazzi. Allora, continuiamo la nostra intervista alla professoressa, chiedendole a quali classi voi dovete sapere che Carla ha un problema quando è in studio, si inceppa. Perché abbiamo riassunto la domanda in quali classi punto interrogativo trattino obiettivi punto non interrogativo svelare raggiunte. Le nostre magagne, non farlo, e lei si è pappinata. Comunque, a quali classi era indirizzato questo atelier, quali sono gli obiettivi che ti sei prefissa, professoressa Valeria, e li hai raggiunti? Li avrà raggiunti? Lo scopriremo tra poco. Atelier Laboratorio di Scrittura Creativa, ho coinvolto una ventina di alunni di una seconda media e volevo ottenere una cosa forse banale, ma che noi professori ci dimentichiamo quasi tutti i giorni, cioè volevo suscitare la motivazione ad apprendere. Purtroppo nella didattica quotidiana siamo presi, avete sentito tante volte, dalla urgenza di mandare avanti il programma, di concludere il programma, e spesse volte noi professori ci dimentichiamo che la motivazione è l'unica cosa che veramente incide sui ragazzi, che consente loro di studiare con un minimo di interesse, che consente loro di sviluppare anche autonomamente delle curiosità, delle passioni, e la motivazione è l'unico strumento che noi abbiamo per rendere lo studio meno meccanico, meno ripetitivo e meno grigio. E quindi con questa attività, che per loro era insolita, sono riuscita a motivarli all'utilizzo della scrittura. Una cosa che a volte sfugge ai ragazzi è che la scrittura serve a qualcosa, non è un mero esercizio fine a se stesso. La scrittura può servire, come abbiamo imparato in questo atelier, a metterti in contatto con te stesso, serve ad esprimerti. È la cosa più semplice, più banale, ma nel fare i classici temi, come hai trascorso la tua giornata, come hai trascorso le tue vacanze natalizie, tutto questo a loro sfugge perché diventa un qualcosa di meccanico, di ripetitivo, di noioso. Invece, attraverso il laboratorio fatto con la musica di Angelo, loro sono entrati in contatto con qualcosa di profondo, con qualcosa che riguarda la sfera della fantasia, della creatività, dell'immaginazione. E quindi sono sicura, in questo caso posso essere anche contenta di dirlo, di aver suscitato in loro la motivazione ad apprendere e ad utilizzare la scrittura per qualcosa di personale, di comprendere che la scrittura serve a comunicare. A comunicare. Allora, Orta è un paese molto antico. A comunicare, che bello Valeria, quanto ci si dimentica. Valeria voleva parlare ancora. Aveva talmente tante bellissime cose da raccontarci. Quindi dicevo, che bello Valeria che tu abbia, che ci abbia spiegato un po' questo. Noi non siamo insegnanti, quindi a volte, o meglio, io non sono insegnante, Angelo è insegnante di musica, ma non sono a contatto con questo tipo di problemi. Però appunto il professore si deve scontrare ogni giorno con a volte degli studenti che colgono raramente quanto può essere utile quello che studiano attualmente, a che ci serve sapere Napoleone, ma ecco, riscoprire la motivazione dà un senso diverso e dà un senso diverso soprattutto nel momento in cui si coglie il contesto sociale nel quale si trova una scuola, ed è per questo che abbiamo chiesto a Valeria di spiegarci un po' Orta di Atella, dove si trova, qual è la sua storia, qual è il suo contesto sociale. Allora, Orta è un paese molto antico che risale a una fondazione romana, latina, quindi ha una cultura anch'essa molto antica, ma una cultura contadina, semplice, quindi autentica, basata su valori tradizionari. Ora, negli ultimi 10 anni, ha subito un profondo cambiamento, una profonda trasformazione, perché è stata, tra virgolette, invasa da persone provenienti dall'interland napoletano, luoghi dove chiaramente la vita è molto meno agevole, forse anche cara. Queste persone hanno trovato in Orta un luogo accogliente e una dimensione di vita un po' più accettabile, anche economicamente più abbordabile, però inevitabilmente hanno finito per inserirsi in questa cultura antica, radicata, un po' gelosa, e l'hanno in qualche modo snaturata. Questo è il rimpianto degli ortesi più antichi, cioè quello di essere stati un po' invasi da questi, chiamiamoli stranieri, che hanno sciupato il loro substrato culturale così forte. E quindi il problema Orta è proprio quello di questa convivenza tra il nuovo e l'antico. Penso che sia poi alla fine un problema un po' di tutto il mondo, e quindi di conseguenza anche la nostra scuola risente di questo cambiamento sociale, e il livello di competenza, di conoscenza, di cultura dei nostri alunni è piuttosto basso. Come mettere insieme il vecchio e il nuovo? Un problema che è un po' di tutti, dice Valeria, sono d'accordo con lei. Come ricevere informazioni dall'esterno, come archiviarle anche, e come integrare quindi il vecchio e il nuovo, mettere ciò che già si possiede insieme a ciò che arriva dall'esterno. E perché no, può essere una fonte di ricchezza, a condizione che sia ben gestita, siano integrate le due cose, non si abbia sulla, su un lato ciò che è vecchio e dall'altro quello che è nuovo, che siano insieme. Sì, e io vorrei però entrare nel vivo. Valeria, ma questi ragazzi, no, che dovrebbero essere all'ascolto, anche tu spero sei all'ascolto, dateci un segno. Dove siete? Siamo su Facebook, il nostro numero di telefono costa solo 12 centesimi come un messaggio in Italia, è 00 anche per gli amici nostri qui a Bruxelles, noi siamo sintonizzatevi su 101, siete sintonizzati su 101.9 in FM perché ci state ascoltando. Chiamateci allo 02 345 26 56 se siete in Belgio. Oppure mandateci un messaggio allo 0032 471 407804. Allora, chiediamo a Valeria, anzi io voglio chiedere a Valeria. Valeria, ma questi ragazzi come hanno reagito? Hanno reagito con un'estrema curiosità iniziale e si sono subito predisposti bene, positivamente, a questa proposta un po' insolita che avevo fatto loro. Stranamente, perché invece insomma, non sempre è facile catturare la loro attenzione. E credo che ancora una volta il merito della riuscita di questa cosa sia stata la tua musica, perché al termine della prima scrittura molti di loro mi hanno detto in maniera diretta di essersi commossi dopo aver sentito la tua musica, dopo il primo ascolto. Considera che era la prima volta in assoluto che sentivano la tua musica e forse anche, appunto, come ho detto prima, una musica non accompagnata da parole, quindi loro, ripeto, sono abituati alla canzone, non alla musica pura, al suono, e quindi si sono commossi, io dico nel senso un po' etimologico della parola, perché commuoversi significa che qualcosa dentro si è mosso, e quindi la musica è andata a smuovere, a rimescolare qualcosa di nascosto in maniera un po' psicologica, qualcosa di nascosto che stava dentro di loro. E quindi quando loro mi hanno fatto questa confidenza, ho capito subito in quel momento e con estrema gioia che l'esperimento aveva un grosso potenziale da sfruttare. Madonna, commosso uguale a smuovere qualche cosa. Ma mi hai fatto smuovere a me, mi hai fatto. Presa d'italiano, studia l'etimologia bellissimo, delle parole. Bellissimo, bellissimo. Altro come me, che sono qua in radio che parlo e faccio finta di parlare l'italiano. Ma che bella questa reazione. Carla, commentiamo perché questa qui è una cosa bellissima. Ci facciamo commuovere, smuovere all'interno di noi stessi sempre meno. Ci vuole qualcosa che tocchi bene come un ago, che tocchi i punti giusti e che ci faccia scendere quella lacrima, o anche senza una lacrima, che ci porti a riflettere e a continuare la nostra riflessione quando torniamo a casa dopo una giornata. Ma bisogna dire che questo atelier di scrittura creativa, la scuola media stanzione di Orta di Atella, è continuato, perché appunto Valeria ha detto: io ho visto che c'era un grosso potenziale, non potevo lasciarlo così e terminare lì il progetto, ho deciso di andare avanti e di inviare proporre ai ragazzi di inviare le loro lettere, che sono in realtà il frutto di questo atelier, ad Angelo via mail. Come non hanno sapete reagito, quante lettere ho, rifai la domanda, scusami Carlo. Come hanno reagito Valeria e i ragazzi? Allora, dopo aver ascoltato la musica di Angelo, dopo aver fatto l'atelier di scrittura, mi è venuto spontaneo proporre ai ragazzi di scrivere all'autore. È una cosa che non capita così facilmente, proprio perché nel nostro percorso scolastico regolare stavamo studiando la lettera, l'email. Ho colto la palla al balzo e ho detto: proviamo a scrivere ad Angelo, al compositore, le idee che ci sono venute, le cose che avete scritto, che dopo tutto sono belle, interessanti. E così abbiamo avuto modo anche di utilizzare il laboratorio informatica, di utilizzare i programmi di scrittura, che per loro comunque è un'attività importante e necessaria. L'aspetto più divertente e bello della cosa è stato che Angelo ha risposto. Mille volte capita di scrivere a persone che si ritengono lontane o più grandi di noi, ma è difficile che rispondano. Invece Angelo ha risposto singolarmente ad ognuno di loro in maniera sempre pertinente, adatta alle loro aspettative, in modo molto spesso anche ironico, simpatico, e il contatto con questa persona, con la personalità di Angelo, li ha galvanizzati, li ha resi soddisfatti e fieri del fatto che una persona che suona, un musicista, che abita a Bruxelles, per loro un mondo così lontano, si interessasse a loro e che rispondesse con tanto calore. Grazie Valeria. Presentiamo un altro brano, Come Together, una cover dei Beatles di Calzone e Gamberetti, ossia un trio composto da Angelo Gregorio, da me medesima alla voce, e da Olivier Fanuel al basso. E questa era Come Together dei Beatles, ma reinterpretata da Calzone e Gamberetti, un trio in cui io sono la voce, Angelo Gregorio al sassofono e loop machine e Olivier Fanuel al basso. Volevamo ricordarvi anche e invitarvi al nostro prossimo concerto venerdì prossimo alla Gugutta Pepe all'Avenue de l'Ippodromo a Bruxelles. Gugutta Pepe, a quanto pare vuol dire l'ultima goccia di un cicchetto, qualcosa del genere, ed è di fronte al deposito di tram di XL. Il concerto inizierà alle 20:30 e l'ingresso è gratuito. Volevamo continuare adesso la nostra intervista. Sì, ricordiamo soprattutto che siete sintonizzati su Radio Alma frequenza 101.9 Questi FM. Questi sono i colori dell'anima con me Carla e Angelo alla regia. Stavamo parlando, intervistando e scrutando dentro le parole della professoressa Valeria Lombardi. Pare commuove e Valeria Lombardi ha fatto un esperimento di scrittura creativa, cose francesemente denominato atelier, nella scuola media stanzione di Orta di Atella. Ha fatto ascoltare un brano musicale ai suoi allievi e gli ha fatto scrivere una piccola storia senza staccare la penna dal foglio, e fino alla fine del pezzo e sono usciti delle lettere, dei temi bellissimi che mi ha inviato, perché la musica che ha usato è quella del mio disco, quindi io sono onoratissimo, grazie mille. E adesso Carla ha un'altra domanda per te, Valeria. Valeria, che reazione hanno avuto i ragazzi stessi a quello che avevano scritto? Hanno detto, oh, ma qua è uscito qualcosa di importante, oppure sono stati colpiti, oppure sapevano già che sarebbe uscito qualcosa del genere? Che cosa è successo? Proprio perché la musica di Angelo è andata a toccare qualcosa dentro, qualcosa di intimo, di sedimentato, nel momento in cui ho chiesto loro di leggere questi brevi componimenti, ovviamente la prima reazione è stata di rifiuto, come a voler proteggere un piccolo segreto che era emerso dalla scrittura. Quindi per incoraggiarli ho letto per prima il mio testo, perché anch'io mi sono sottoposta all'esperimento, diciamo così, insieme a loro. E questo mio gesto di condivisione probabilmente li ha incoraggiati a parlare. E non tutti, ma quasi tutti hanno letto il loro scritto ed erano, devo usare la stessa parola, commossi e toccati anche dall'ascolto delle parole dei compagni, perché sono cose intime, sono riflessioni soprattutto a cui loro non erano abituati, non sono stati abituati ad esprimere qualcosa di vero e di autentico. Di solito quando si scrive il classico tema si tende a ripetere degli stereotipi. E grazie Valeria anche per questa risposta. Noi siamo su Radio Alma, i colori dell'anima, e come dice il nome stesso della trasmissione, i colori dell'anima. Scegliamo e la porta che avete sentito era il nostro aiuto regia che ha chiuso la porta. vai con la prossima domanda. Gli effetti. Quindi ai colori dell'anima, in ogni trasmissione scegliamo un colore che meglio si addice alla trasmissione, al tema svolto. Stiamo anche noi svolgendo un tema e oggi abbiamo pensato al colore azzurro come Napoli, azzurro come Napoli, azzurro come la città dove ha avuto luogo tutto ciò, e anche come all'orizzonte, che è stata la canzone che ha ispirato questi ragazzi. Un'altra domanda per Valeria. Cara Valeria, abbiamo un sacco di domande da farti, ma ancora un'altra, cioè come ti spieghi che alcuni ragazzi hanno scritto che non volevano parlare di quello che avevano prodotto? Allora, dopo il mio invito a scrivere, gli alunni hanno composto testi molto diversi tra di loro. Talvolta erano dei semplici elenchi di pensieri sparsi, concatenati tra loro da aggiunti, da legami misteriosi, a volte completamente sconnessi, non avevano cioè un senso logico o un periodare questi pensieri che loro hanno elencato uno dietro l'altro. Altri ragazzi invece hanno scritto una serie di immagini evidentemente evocate dalla musica di Angelo in successione sparsa. Ma in entrambi questi casi io ci ho visto qualcosa di positivo, perché è stato segno che i ragazzi sono riusciti a riconoscere i colori della musica di Angelo, del brano, che non è sempre uguale, chiaramente. Adesso non so tecnicamente come si possa dire, ma la musica che ho proposto loro, che era L'Orizzonte, aveva delle continue variazioni, aveva un fraseggio, aveva un'alternanza di intonazioni. E a questa alternanza sono corrisposte immagini diverse, anche a loro volta alternate. Altri alunni invece sono partiti dallo stimolo dato dalle parole, cioè dall'immagine relativa al mare che precedeva la musica di Angelo, e quindi hanno dato il via ad una breve storia, ad un piccolo racconto, rievocando quasi sempre ricordi belli, ricordi dell'infanzia. Altri invece, e forse questa è la cosa più interessante anche per Carla, che è una psicologa, ascoltando la musica sono entrati in contatto con questa parte profonda e hanno rievocato o affetti perduti, o momenti di tristezza, o momenti di malinconia, o litigi con amici. Insomma, sembra quasi che alla fine la musica di Angelo abbia avuto un effetto terapeutico, e questo forse è l'aspetto sul quale si potrebbe riflettere noi adulti, chiaramente. Un effetto terapeutico, wow! Diciamo che questo atelier è nato come un atelier, poi un rapporto epistolare, poi si è evoluto ancora di più, in quanto a Pasqua io e Angelo siamo scesi in Italia, siamo scesi a casa, e Valeria Lombardi, la professoressa di questa classe di seconda media della scuola Stanzione di Orta di Atella, ci ha proposto, o meglio gli ha proposto, di eseguire un concerto per i ragazzi. Ha invitato anche altre due classi, ma in particolare gli invitati prescelti erano gli allievi di questa classe che ha partecipato al progetto, e Angelo ha anche spiegato delle cose, quindi era un misto tra un workshop ed un concerto. E io voglio salutare Gennaro Di Riso, che è all'ascolto in streaming dall'Italia. Grazie. Ciao, Gennaro, grazie. Continua a scriverci commenti, che se hai qualche messaggio non lo diremo. Prego Carla, continua. Beh, Valeria, cosa ha significato questo concerto per i ragazzi? L'opportunità che i ragazzi hanno avuto di incontrare Angelo di persona è stata un'esperienza per loro unica e ripetibile. Molti di loro mi hanno scritto nei testi: non ci posso credere di aver conosciuto un musicista professionista. Quindi loro raramente hanno potuto assistere alla esecuzione dal vivo di musica, e quindi questa è stata già la prima esperienza positiva che loro hanno fatto. La seconda cosa che loro hanno colto, ne sono sicura, è che c'è stato qualcuno, cioè Angelo, che ha dedicato loro del tempo, che ha pensato all'incontro con loro, che lo ha preparato e che si è comportato con loro davvero professionista, e loro hanno riconosciuto questo compito, questo ruolo di Angelo. E quindi la partecipazione di Angelo, la presenza di Angelo nella nostra scuola è stato un momento di arricchimento, un momento di novità. Io guardavo, mentre Angelo suonava, guardavo i miei alunni in faccia, cercavo di cogliere dalle espressioni del loro viso degli elementi in più per capire se ce ne fosse bisogno, se gradivano o meno. Loro avevano le bocche semichiuse, gli occhi rapiti da Angelo, e hanno mostrato un interesse che chiaramente è difficile ottenere in altre situazioni. Però volevo leggervi una cosa simpatica che ha scritto un alunno, e diceva: quando ho visto Angelo mi è sembrato uno qualsiasi di quegli artisti da strapazzo che si trovano per le strade, ma ho dovuto ricredermi. Per la prima volta ho capito veramente che cosa vuol dire il detto "l'apparenza inganna". L'apparenza inganna, puoi dirlo forte? E ci vorrebbe una piccola foto a questo punto della faccia di Angelo per farmi capire. Barbone. Sì, questo barbone. Immagino già questo allievo. Che chi sei? Dimmi, scrivi il tuo nome su Facebook. Oggi indossa anche la maglia di Superman. Sì, c'ho la maglia di Superman. Si è immedesimato in questa funzione terapeutica e si è sentito Superman. No, io ringrazio veramente, è stata un'esperienza fantastica, veramente mi sono emozionato, i ragazzi mi hanno veramente emozionato sono emozionato tuttora se ci ripenso, la classe gremita, silenzio, veramente, e ringrazio veramente di cuore la professoressa Lombardi, ma i ringraziamenti verranno dopo, la prossima domanda. Che cosa è successo dopo tutto ciò? L'atelier, le lettere, il concerto, il workshop, ecco, i ragazzi sono stati diversi, sono cambiati, si sono mostrati più sensibili a qualcosa. Ed ancora un'altra domanda, quali punti di riferimento hanno questi ragazzi? A cosa si ispirano? Quali sono i loro modelli? Sicuramente ho visto dei cambiamenti nell'ordine della motivazione ad apprendere, per cui questi cambiamenti li ho rilevati principalmente dai loro scritti, perché dopo la visita di Angelo nella nostra scuola, chiaramente secondo le modalità più tradizionali dei professori, ho dato un tema, chiamiamolo così, per riassumere quello che loro avevano vissuto, che avevano sentito nelle ore trascorse con Angelo. E molti di loro mi hanno detto di essersi rilassati, di aver vissuto quel momento con un senso di pace e di partecipazione totale a tutto quello che avveniva. E quindi già questo per me significa un passo avanti, un traguardo fondamentale, perché ha costituito quel momento trascorso con Angelo proprio un collante sia tra di loro e forse anche nei miei confronti, perché sono stata il tramite che ha fatto conoscere i ragazzi ad Angelo e ha permesso loro di scoprire questo nuovo mondo della musica e del sassofono. Quindi da questo punto di vista sicuramente ho notato un cambiamento. Quindi non solo più una professoressa, ma un qualcuno che ti fa conoscere un musicista. Chissà come vieni percepita adesso, Valeria, dai tuoi ragazzi. Infatti. E sarei proprio tu non sei curiosa di sapere che cosa hanno scritto questi ragazzi in questi sì, testi? Sì, ma una cosa che mi chiedevo, mi sono per qualche secondo fatto l'esercizio di diventare piccola, di avere 12 anni, non tanto piccola, ragazzi, ragazzina, e di immaginare di conoscere un musicista, poi voglio dire certo tipo di musicista di un certo spessore, e di conoscerlo, di ricevere una lettera da lui, chissà come mi sarei sentita. Ma sì, sarei curiosissima di leggere qualche frase in particolare di questi temi. Sì, dai, ascoltiamoli. Vai, Valeria, deliziaci. Diciamo che i punti di riferimento come modelli di... No, Valeria, questo l'hai già detto. Allora, ti abbiamo chiesto gli estratti dei temi. Ringraziare Angelo perché ha trasformato una giornata grigia e triste in una giornata indimenticabile. E mi sembra che Valeria ha capito una cosa per un'altra, oppure qui in regia abbiamo dei problemi con il disco. Ritorneremo da voi. E Carla, vuoi dire qualche cosa? Hai trasformato una giornata grigia. Beh, a Bruxelles sarebbe un po' difficile trasformare una giornata grigia in una giornata particolare e soleggiata. Hai ragione, Carla. Gli estratti dei temi, eccoli qua. Voglio ringraziare Angelo perché ha trasformato una giornata grigia e triste in una giornata indimenticabile. Sono felice perché Angelo mi ha insegnato ad inseguire i miei sogni e che ci si può anche innamorare della musica. Ringrazio veramente tanto Angelo perché in quelle due ore trascorse con noi ci ha fatto conoscere il lato migliore della musica e soprattutto ci ha insegnato ad ascoltare ciò che ci circonda e a farci una nostra idea sulle cose. È questa la cosa che più conta. Mi piace come Angelo suona il sassofono. Sembra un tamburo, una chitarra, una batteria, un insieme di cucchiaini, un pianoforte, una fisarmonica e un trombone messi insieme. Quando ascolto la musica di Angelo è come se la mia mente si aprisse e mi facesse riflettere su tutto il mio passato. Quella musica mi faceva pensare alla pace, al silenzio, alla solitudine. Ero rilassata e avevo dimenticato tutti i miei piccoli problemi. Mi sembrava di essere in paradiso, mi sento sola, io e il sassofono. Dunque, innanzitutto voglio Wow, meravigliosi questi temi, questi estratti, il paradiso, il contatto con se stessi. Volevo chiedere appunto a Valeria quali sono i punti di riferimento, lei che ha contatto con questi ragazzi dodicenni, neoadolescenti, quali sono i loro punti di riferimento e i loro modelli? Diciamo che i punti di riferimento come modelli di vita, diciamo, per questi ragazzi sono pochi. Anche perché vivono in un paese periferico tra Napoli e Caserta che ultimamente ha subito dei fortissimi cambiamenti ed è una realtà sicuramente un po' povera dal punto di vista culturale, quindi per loro il punto di riferimento saranno sicuramente i genitori, se ci riferiamo a figure adulte. E in secondo luogo, tante volte in primo luogo, noi insegnanti della scuola. E Angelo, forse sembrerà strano, difficile da capire, per loro è diventato, non sono esagerata, è diventato un punto di riferimento. E sai perché? Perché lui ha saputo trovare le parole giuste, adatte alla loro età, per rispondere alle loro lettere e alle loro domande. Loro sono rimasti toccatissimi dalle parole di Angelo e quindi sono rimasti contentissimi della disponibilità e del tempo che Angelo ha dedicato loro. Ti dico solamente che quando entravo in classe la mattina per un bel po' di settimane, la loro prima domanda era: professore, ha risposto? attendevano con ansia le parole di Angelo perché sicuramente è stata la prima volta che loro hanno instaurato un dialogo via lettera con una persona adulta lontana e loro poi hanno caricato la figura di Angelo di tutta una serie di qualità che lui sicuramente ha e che ha dimostrato di avere quando è venuto a parlare con noi di persona. I colori dell'anima, siamo su Radio Alma alla frequenza 101.9 FM e in streaming per chi ci segue dall'Italia su radioalma.eu. Un ringraziamento a Luisa Sessa che ci fa i complimenti per la trasmissione. Ciao Luisa, ciao Luisa. Grazie mille per seguirci e per aver postato un commento. Grazie Valeria per questi commenti, per la descrizione del tuo progetto, per aver avuto questa idea, per aver investito così tante energie in questo progetto. L'insegnante è un lavoro che si può fare in tanti modi, tanto come si dice in Italia ormai un posto fisso tiene, quindi lo puoi fare in tanti modi, ma quando lo e fai Monti con... aggiungerebbe anche noioso. Anche noioso. Lo puoi fare in tanti modi, ma quando ci metti creatività, ingegno, passione, motivazione, la passi anche ai tuoi allievi. Quindi ti ringraziamo per aver invitato Angelo. Io sono venuta con curiosità a vedere questo concerto ed è stato veramente bellissimo prenderne parte. Lanciamo un ultimo brano prima di salutarci, che è Voglio una donna dell'Angelo Gregorio Band. Voglio una donna dell'Angelo Gregorio Band, che sarà in concerto il 3 giugno al Weekend Italiano a Charleroi qui in Belgio, quindi vi invitiamo tutti al loro concerto che sarà sicuramente emozionante e sfavillante. Sì, e io voglio ringraziare anche Vincenzo Martire e Gennaro Di Riso perché sono all'ascolto. Beh, io ringrazio perché Vincenzo. Ci hanno scritto che si ricordano. Gennaro Di Riso mi ha fatto anche un grande complimento, ma grazie mille Gennaro. Vici, anche io mi ricordo delle giornate in Germania. Beh, speriamo di rincontrarci e di suonare un'altra volta insieme, perché voi dovete sapere che Vincenzo Martire è un grandissimo, grandissimo sassofonista. Beh, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, Carla, vai, ti lancio la palla. presa con Bacher. Volevamo quindi per l'ennesima volta ringraziare Valeria Lombardi, professoressa di lettere alla Scuola Media Stanzione di Orta di Atella, tutta Orta di Atella, sperando che ci siano stati molti ascoltatori lì ad Orta di Atella. Io non ci posso pensare che nemmeno un alunno di questi qui, perché io vi saluto lo stesso. Salutiamo Michele, Elisabetta, Marisa, Marco, Anna, Jessica, Mario, Giuseppe, Nunzia, Desi, Carmine, Francesco, Domenico, Emilia, Rosalba, Benito M, Benito S, Salvatore, Giovanni, Luigi, Jessi e Giuseppe, e anche Luisa Sessa che ci ha seguito, so dove sei a Salerno e ti conosco molto bene, e Gennaro Di Riso e Vincenzo Martire. Spero che anche degli amici miei che ho ad Orta di Atella, tipo Maria Falace, tipo Marilena Arena, abbiano potuto seguire la trasmissione. Beh, il destino mi ha riportato ad Orta di Atella e sono stato molto molto emozionato. Angelo, secondo me li hai bloccati e commossi tutti, quindi non riuscivano più a contattarsi. Però non si fanno sentire. E c'era Valeria che voleva fare anche lei dei ringraziamenti. Dunque, innanzitutto voglio ringraziare il sassofono, perché secondo me la voce del sassofono è speciale, come la carta vetrata che accarezza da un lato, leviga, liscia e fa brillare le cose, ma nello stesso tempo va a scavare, va a scartavetrare, solleva lo strato superficiale, ti mette in contatto, come abbiamo visto con i ragazzi, con le cose più intime dell'anima, e fa anche un po' male. Secondo ringraziamento ad Angelo, perché è stato serio, professionale, simpatico, diretto e coinvolgente. E il terzo ringraziamento chiaramente va a tutti gli alunni della mia classe che hanno accolto con tanta disponibilità questo piccolo esperimento e hanno partecipato con serietà, impegno. Sono sicura che anche loro dopo questo lavoro si sentono migliori. E grazie ragazzi della Scuola Stanzione, grazie Orta di Atella, Valeria, Giampaolo alla regia. Sì, un grazie Giampaolo, fatti sentire. Ciao a tutti. È vero, esiste, è lui. Grazie a tutti quelli che si sono messi in contatto con noi, quelli che ci hanno ascoltato segretamente ma con piacere, quelli che apprezzano i temi delle nostre trasmissioni. Noi ci rivedremo ben presto qui il mese di maggio. Sì, saremo in studio il 14 maggio, lunedì 14 maggio, sempre dalle 21 alle 22 qui a Radio Alma. E ricordiamo il colore di questa sera: azzurro. Come il Napoli. Sì, e forza noi, Napoli. Noi vi salutiamo, questi erano i colori dell'anima. Ciao! Ciao!